Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ha detto che io grido, dico parolacce, ma guardate, io ho rivalutato moltissimo la rabbia, la parolaccia ha una sua funzionalità sociale, fa arrivare un concetto preciso dentro il cuore e il cervello. Chi vince le elezioni? Noi vinciamo le elezioni europee. Perché allora alle elezioni locali scendete? Perché nell'elezione locale subentra la personalità di chi viene eletto, cioè la persona più conosciuta. Noi abbiamo sbagliato in quel senso, abbiamo affrontato le elezioni sia regionali che comunali con persone non conosciute. Com'è diviso oggi l'elettorato? Abbiamo il paese diviso in due. Io voglio rivolgermi a queste persone qua. Bene, se voi state bene e l'altra metà dell'Italia è sott'acqua e vi sta bene così, a me non sta bene così. Che ruolo avrete nel Parlamento europeo? Andiamo là a cambiare, andare dentro il Parlamento. Il Parlamento europeo nelle ultime elezioni su 365 milioni di persone che avevano diritto al voto, 220 milioni non hanno votato. Costringeremo il Parlamento a fare il suo lavoro. Con i partiti italiani, niente alleanze? Io non posso fare, noi non possiamo nel nostro DNA fare nessun tipo di coalizione, non possiamo fare nessun tipo di alleanza se non sul nostro programma. Uscire dall'euro? Le decisioni sull'euro le prenderà un referendum, se non vogliamo uscirne non potremo uscirne, ma almeno avere un euro a due velocità. E la questione del debito? La Germania nel 1953 aveva 25 miliardi di euro dell'epoca di debito per danni per la guerra. Secondo voi li ha pagati? No! Allora, non li ha pagati perché ha detto che era immoralmente assurdo chiedere i soldi perché gli facevano retrocedere di nuovo a un'altra guerra. Ma quale governo fai? Quale forza politica se non vai lì e prendi il trattato e dici non pago? Quali idee avete sul lavoro? Il lavoro è il più grande ricatto di questo secolo. C'è gente, molta gente, che è convinta di avere un posto di lavoro. Non ha un posto di lavoro, ha un posto di reddito. È il reddito che ti inserisce o ti disinserisce dalla società. Ecco perché nel nostro primo punto del programma abbiamo reso il reddito di cittadinanza. Perché se un'azienda chiude, che chiuda, è il libero mercato, ma non devono chiudere le famiglie. Senatore Vito Crimi, buongiorno. Buongiorno. Era una breve sintesi fatta da Piazza Pulita lunedì del pensiero di Grillo sui temi caldi della campagna elettorale e non solo. Ecco, che cosa manca? C'è qualche punto che è importante che manca? No, credo che sia stato affrontato tutto in questo quadro, un po' spaziato su tutto. Sicuramente è importante sottolineare, questo è un tema che abbiamo in questi giorni, che il tema delle riforme, come in questo periodo ce lo stanno propinando, come la ricetta di tutti i mali, è una grande bufala che stanno cercando di mettere davanti per distrarci dai veri problemi del paese. Ecco, perché... senatore Crimi, scusa un attimo, 800 24 00 24, il numero verde, 348 239 6666, l'SMS. Ecco, quello che dice Grillo, dice Renzi è un pagliaccetto che copia il nostro programma. Ecco, ma se copia il vostro programma, allora perché sulle parti copiate non ci possono essere alleanze? Ma nessuno ha detto che non ci sono alleanze, cioè, o meglio, non ci sono alleanze così precostituite. No, certo. Ma sui singoli temi, se c'è da votare, magari si andasse avanti e si potessero fare. Il problema è che, non so se vi siete accorti, che di tutti gli annunci le uniche cose che stanno andando avanti in maniera spedita sono le due cose più inutili, probabilmente le due cose meno efficaci per rilanciare questo paese, sono le riforme del Senato e la legge elettorale, come se questi fossero la panacea di tutti i mali. Sembrerebbe una panacea, ma un a priori, cioè cercare un sistema che renda governabile il paese. Poi cioè, può essere quello o può essere, certo, può mentre essere le diverso. Famiglie non arrivano a fine mese, la legge Fornero è ancora in piedi, mentre i contratti di lavoro sono quelli che sono, mentre la situazione è questa in questo paese. Noi invece di affrontare come trovare risorse per dare un aiuto, come quello che proponiamo noi, il reddito di cittadinanza, tutte le famiglie in difficoltà, noi cerchiamo di risolvere il problema, ecco, del ma Senato. Gli 80 euro, no, vabbè, adesso no, non, gli 80 è che, euro, non è, guarda, non è, è che... una buffonata, ma anche lì, cioè, ma vogliamo, vogliamo dire che sono quegli 80 euro che risolvono il certo problema, no. Poi certo legati no. alla armonizzazione, questa parola magica, perché sa, sono bravi a usare le parole, delle detrazioni per carichi di famiglia. Ma anche voi siete bravi a usare le parole, eh? Ma no, tutti, sono tutti bravi a usare. Ecco, ma... bravi a usare. Noi usiamo parole dirette, però non usiamo parole come armonizzazione. Sì. Io non le ho mai parlato di armonizzazione, ah. Io dico una cosa, punto. Sì. Ecco, diciamo che in campagna elettorale però si dice veramente qualunque cosa. Non sarebbe il momento di usare anche la campagna elettorale invece in un altro modo? Guardi, tutti. Ha pienamente ragione e io le posso garantire. Su questo lei mi deve dare atto, però, che noi in campagna elettorale abbiamo detto poche cose. Avevamo 20 punti e ne abbiamo 7 per le europee, e questi 20 punti e gli 7 punti non li abbiamo mai abbandonati e li seguiamo. A differenza di chi ha scritto, io le ricordo che il Partito Democratico nel suo programma ha scritto mai una riforma costituzionale in deroga all'articolo 138 con commissioni speciali. L'ha scritto nel suo programma e voleva fare una commissione speciale in deroga all'articolo 138. Noi su questo me ne deve dare atto, sì, pochi punti chiari e diretti. Ecco. Reddito di cittadinanza, piccole e medie imprese, e su quello abbiamo lavorato. Abolizione dell'IRAP, e ci abbiamo provato in più di un'occasione, e non sono cose che abbiamo diciamo abbandonato o fatto finta di dire. Ma voi cosa vi aspettate dalle elezioni europee? Di vincerle? Veramente? Nel sì, senso maggioranza sì. assoluta? No, no, maggioranza, un voto in più del PD, guarda, sì. non ci sono dubbi su questo. Mm. E qual è il punto più qualificante? Quello più qualificante? Dice Grillo, l'euro a due velocità, è questo? No, quella è una conseguenza. I punti più qualificanti sono sei, e sono i sei punti precedenti il referendum, l'euro. Sì. E sono la ritrattazione dei trattati internazionali che ci vedono oggi obbligati ad avere una velocità diversa rispetto... Okay. Vabbè, anzi, questo... ci obbligano ad avere una stessa velocità. Guardi, le porto un esempio che faceva una collega che credo che sia molto calzante. Le immagini di avere due macchine, una Mercedes, e non è casuale l'esempio, è una Fiat Punto, che vanno in un'autostrada e gli viene imposto a entrambi di andare a 150 all'ora in modo costante. Sì. Una ce la fa, l'altra all'inizio magari ce la fa, ma dopo un po' arranca e comincia a spompare. Questo deve cambiare, deve essere imposto ai due di andare a una velocità minore. Senta. Per poter andare e arrivare a obiettivo Senta, insieme. Senta, senatore Crimi, ieri comunque Grillo ha detto non ho usato la Shoah a scopi elettorali e non chiedo scusa alla comunità ebraica, anche mi sembra che ha detto che il portavoce, non so cosa è scemo, non so cosa ha detto. Non lo so. Ecco, guardi, io le dico ma lei è d'accordo questo. Con Grillo? Guardi, no, le chiedo allora, se su questo punto è d'accordo con Grillo. Ma guardi, le dico, ogni campagna elettorale... Cioè proprio sì. ogni campagna, un mese prima esce la questione Grillo e antisemita, proprio è una cosa ormai no, lui come dire ci ha messo del suo. Cos'è questa musica? No, c'è stato un errore in regia. Cioè, dicevo, ogni campagna elettorale, se volete andare a cercare nel passato, noi stiamo facendo la ricerca appunto perché ogni campagna elettorale un mese prima esce sì. una questione legata al fatto che Grillo sia antisemita ed esce dai vertici delle comunità ebraiche, questo tipo no, di No, ma voglio attacco, dire, comunque guardi. Lì c'è un fatto. Ma c'è non stato c'è un fatto, fatto. Niente, no, assolutamente, non c'entra nulla, né gli ebrei né niente, è un modo per... cioè l'attacco non è rivolto assolutamente... Vabbè. Cioè, non vedo, io non vedo veramente come possa offendersi la ecco. comunità ebraica da quelle, anche perché ci sono stati ben forse più forti attacchi in passato da parte di altri soggetti. Senatore Crimi, Mario Secchi, una domanda. Buongiorno, sì, senatore. Buongiorno. Sareste pronti a fare un'alleanza in futuro con la Lega? Ma assolutamente no, non vedo perché dovremmo fare un'alleanza con la Lega. Cioè, se ci sono dei temi su cui votiamo insieme lo facciamo, ma lo facciamo giornalmente al Senato. Pensi che abbiamo votato insieme al PD il 416 ter nella sua prima versione al Senato, purtroppo oggi. Pietrangelo? Pietrangelo? Buongiorno, io vado in conseguenza alla domanda che le ha fatto Mario Secchi. A questo punto le chiederei, ma qual è la differenza tra voi e la lista Tsipras? In tema di diritti civili dite le stesse cose, reddito minimo garantito le stesse cose. La differenza qual è? Che voi avete Grillo e loro no? No, cos'è la lista Tsipras? Cioè, dovete spiegarmelo, cos'è la una sinistra radicale, una costaia estrema di sinistra radicale, che ormai è un concetto che a poco è andato scemando e che non si sa più in mano, cioè in testa a chi è questo concetto di sinistra. No, ma la domanda era concreta sul qual è la differenza dal punto di vista dei temi, dei contenuti, anche degli atteggiamenti, dell'impostazione culturale. Guardi, parliamo di credibilità, cioè non c'è una questione di temi solamente, è una questione di credibilità. Alissa Tsipras è, ripeto, una cozzaglia di persone che ritengono ancora di poter creare una lista mettendo insieme una serie di... Senatore, siamo in chiusura. Ma per semplificare, voi comunque siete a sinistra? Assolutamente no. No. Né a sinistra né a destra. Né a sinistra né a destra. Senta, un'ultimissima cosa, Stefano ci scrive: con il reddito di cittadinanza in Italia non lavorerebbe più nessuno. Che senso ha? Una battuta? Assolutamente no, guarda, il reddito di cittadinanza è una cosa molto complessa che prevede il riordino delle agenzie per l'impiego, una banca dati unica per tutte le agenzie interinali, prevede un limite, se si rifiutano entro tre volte dei lavori offerti dagli uffici di collocamento per il diritto, eccetera. Pacchetto di proposte, è un pacchetto completo. Auguri senatore, grazie. Grazie a voi. Grazie. Quando partite per le vacanze? Oggi stesso, ci resta solo a fare valigie. E dove andate? Non lo sappiamo, se in campagna, in montagna, al mare, boh. Noi non lo sappiamo, sono i nostri figli che hanno deciso. Sì. Che bello. Sì, è bello, è bellissimo. Perché loro ci hanno fatto tutto un programmino. Ma non come l'altri anni a Ostia, in mezzo a qua, a mucchiata, poi a sera a tratto lì a farsi la pazza così dei bucatini, no. A papà e mamma quest'anno ci pensiamo noi. Abbiamo programmato per loro un viaggio attraverso l'Italia di tipo culturale. Una vacanza intelligente, insomma. Legge il programmino a papà. Vi ho programmato una sosta al cimitero degli Etruschi a Tarquinia. Io e mamma ci andiamo sempre al Camposanto a trovare nonna, ci piace. Ma che c'entra nonna? Caterina Valente, proprietaria dell'hotel Locarno, uno storico hotel del centro di Roma. Nell'anno del boom del turismo nel mondo, l'Italia ha perso il 4,6% di turisti. Il problema è la promozione del paese? Il turismo potrebbe far ripartire l'Italia, potrebbe essere il motore, ecco, che ci farebbe uscire. Tutti lo dicono, ma poi nessuno lo fa. Tutti lo dicono, nessuno lo fa. Ecco, allora parliamo di cose concrete, sì. Signora Valente. L'ENIT, che è l'Agenzia Nazionale del Turismo, sì, che deve promuovere l'immagine, non garantisce una visibilità, è questo? L'ENIT secondo me andava chiusa ieri, non andava aperta nemmeno, perché questo ente che dovrebbe promuovere il turismo lo fa nell'era della globalizzazione, dove il mercato delle vendite è totalmente ormai su internet, il turismo ancora di più perché è servizi, no? Per cui è tutto su internet, fa marketing con 20 sedi sparse in giro per il mondo, quindi con degli uffici, con dei funzionari che lei dice che bisognerebbe chiuderlo assolutamente, ma intanto la responsabilità del turismo è delegata alle regioni, dovrebbe tornare allo Stato intanto per ricominciare. La prima cosa da fare perché le regioni hanno fallito. Ma fallita è stata una scelta allucinante. Noi abbiamo in giro fiere per il mondo a Shanghai, lei trova vicino al stand dell'Australia colossi, abbiamo lo stand della Basilicata. Bisogna chiudere tutto, non investire più una lira in turismo nella promozione, perché non lo sanno fare. Lei è un'albergatrice romana che ha fatto anche dei movimenti, per questo la sentiamo. I turisti che soggiornano da noi lamentano più spesso cosa? Infrastrutture che non funzionano, trasporti, abusivismo, segnaletica che manca, persone non accoglienti, musei che chiudono presto, impiegati che non parlano l'inglese, addetti ai beni culturali che dovrebbero ospitare i turisti in maniera accogliente. Una cosa concreta, a Roma c'è la tassa di soggiorno, è stato un bene o un male secondo voi? Non è un male per noi, perché l'albergo non ha nulla, è il turista che viene vessato, quindi non sarà un bene nemmeno per il comune, perché i turisti non andranno più ai musei capitolini, perché non ci sarà più turismo, perché miope, una scelta folle, perché non è che penalizza l'albergatore, penalizza il turismo. Quindi voglio dire, prima di andare a vessare i turisti, oppure diamogli sicurezza. Bravissima. Dice lei, mi dice tre cose da fare subito, ci abbiamo ancora 20 secondi. Il marketing mouth by mouth è il migliore del mondo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea, sono 80 milioni i turisti che vanno in Francia, 58 milioni quelli che vanno in Spagna, nel nostro paese sono 46 milioni, abbiamo perso il primato anche in Europa? È una sconfitta definitiva? Ma io credo di no, bisogna fare di più, bisogna trasformare il turismo in un vero comparto industriale puntando sulla tecnologia, puntando sulla qualità, puntando sulla formazione. Lei ha proposto una drastica semplificazione per il rilascio dei visti turistici. Ecco, di quanto potrebbe aumentare l'introito per l'Europa? Ma per l'Europa potremmo guadagnare 70 miliardi e 250 mila posti di lavoro l'anno. Solo semplificando i visti? Esattamente sì. Le vecchie regole, per esempio, nel 2012 ci hanno fatto perdere circa 10 milioni di turisti, quindi abbiamo deciso di modificare le regole, renderle più flessibili, meno attese ai consolati e per la prima volta visti che si possono concedere direttamente alla frontiera, però solo per un paese dell'area Schengen. Ecco, questo da quando? Appena sarà approvato dal Parlamento e dal Consiglio, io credo che si può pensare ragionevolmente a una decisione entro la fine dell'anno, per poi rendere operativa questa decisione per far crescere il numero delle presenze turistiche in occasione di Expo 2015. Insomma, quindi, lei dice per l'Expo, che si possa arrivare in tempo. Per l'Expo 2015, quindi ci vorrà ancora un anno e mezzo, insomma, diciamo. Un anno. Vabbè, la proposta è stata fatta. Abbiamo però già deciso di eliminare i visti per i paesi degli Emirati Arabi, Perù e la Colombia. Con la Cina ci stiamo muovendo? Con la Cina abbiamo organizzato parecchi incontri, loro chiedono non soltanto regole più semplici per i visti, ma chiedono anche un incremento dei voli, quindi credo che adesso la nuova Alitalia, rinvigorita dal flusso finanziario che è atteso, dovrebbe incrementare i propri voli per le lunghe tratte. E lei crede che arriveranno veramente 20 milioni di visitatori per l'Expo? Bisogna farli arrivare, non possiamo avere un'attesa messianica. Ecco perché serve cambiare le regole, serve trasformare il comparto turistico in un vero settore industriale, renderlo più moderno, più competitivo, con delle piattaforme tecnologiche e con una formazione diversa anche degli operatori, anche le nostre scuole turistiche non possono essere scuole come si faceva un tempo, dove andavano magari quelli che non riuscivano a fare il liceo classico o il liceo scientifico, oggi devono essere scuole di alta qualità che formano professionisti di livello. Però, onorevole Tajani, intanto noi per fare tutto questo e promuovere l'Italia abbiamo un ente come l'Enit che a fronte di 24 milioni di budget ne spende 19 per stipendi, cioè il 78% del suo budget. Forse è meglio chiudere che insistere in quella direzione, no? Chiudere se non si cambia, se si cambia e si ottengono dei risultati conviene vale la pena investire. Il problema è 78% di stipendi, onorevole Tajani, 78%. Quello sicuramente con le piattaforme tecnologiche che ci sono per vendere, tutto il mondo vende via internet e noi ci abbiamo ancora ognuno, l'Enit c'ha gli uffici in ogni paese o quasi, ma insomma. Vanno ridotti i costi e investiti meglio i soldi, questo certamente. Certo, se non si è in grado di fare questo, allora conviene cambiare sul serio. Tutti parlano di questa cosa del turismo come risorsa, però poi in realtà non è mai prioritario, non è mai stato prioritario nelle scelte di nessun governo. Lei parla di esigenze del marchio Europa, se ho capito bene, per il turismo, ma intanto almeno un marchio Italia, invece che avere tutte le regioni che fanno i loro piccoli stand dove, non so, gli Stati Uniti arrivano Stati Uniti, la Cina arriva Cina, forse non sarebbe meglio? Sono assolutamente d'accordo, la propaganda regionale non serve a nulla, avere la pubblicità della Basilicata piuttosto che della Puglia in Cina è molto meglio avere la pubblicità dell'Italia, ma aggiungo, meglio ancora quella dell'Europa, e questo è un po' il compito che noi stiamo cercando di svolgere, perché diventa determinante aprire una porta e poi far girare all'interno dell'Unione Europea turisti benestanti come sono i cinesi, ma aggiungo come sono anche i russi. Naturalmente. Il turista russo è un turista che spende molto, che certamente esige qualità, che vuole viaggiare, ma se noi non ci organizziamo rischiamo che questi turisti, sia russi che cinesi, vadano in altre parti del mondo. E questo è quello che sta capitando, purtroppo è quello che sta capitando. Ecco, quindi abbiamo detto togliere le competenze alla regione o riportare nello Stato, almeno quello è essenziale. Si possono lasciare alcune competenze alle regioni certamente per fare altre cose, ma la presentazione nel mondo deve essere fatta a livello nazionale o a livello europeo, perché altrimenti si sperpera un sacco di denaro pubblico senza ottenere risultati. E tutto questo si farà quando? Con la prossima Europa? Questo deve essere fatto, ma già noi lo stiamo facendo. Ma quando lei dice volta... stiamo facendo, al di là di questa ottima scelta dei visti, che mi sembra già una porta d'accesso, diciamo, semplificare la porta d'accesso, ma poi stiamo facendo, abbiamo, cosa vuol dire? Abbiamo nel bilancio comunitario per la prima volta investito denaro. Quanto? Quanto si è investito? Sono 2 miliardi e mezzo complessivamente nel pacchetto Cosme, dove c'è una cospicua somma destinata alle politiche turistiche. Più abbiamo promosso attraverso le missioni per la crescita organizzate in tutto il mondo le industrie turistiche europee. Vi abbiamo sentito prima il racconto di un'albergatrice di Roma veramente molto molto seccata e arrabbiata, diciamo, per la scarsità dei servizi al turista. In realtà il turista è come una bottiglia nel mare, messaggio buttato, specialmente per chi viene da fuori. Manco la segnaletica aiuta il turista. Ecco, partiamo almeno di lì? Ma almeno dalla segnaletica, ma anche dalle opportunità che devono essere offerte ai turisti. Segnaletica, manutenzione della città, sicurezza in città, sicurezza, illuminazione della città. Cioè sono tutti investimenti che poi non si fanno per adesso. Un effetto leva. Certo, per adesso non si fanno, si fa la tassa sul turista. Questo è qualcosa che non serve a molto, serve cambiare mentalità e rimettere al centro anche della politica industriale la politica a favore del turismo. Non avere un ministro del turismo a me pare sbagliato. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Andrea Babbi, buongiorno, direttore generale dell'ENIT, buongiorno, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Abbiamo sentito, il 78% delle vostre spese è destinato a pagare gli stipendi e a mantenere 20 sedi nel mondo. Ecco, nell'era di internet è il modo migliore, eh? Beh, innanzitutto il modo migliore nell'era di internet è dire le cifre esatte. Sì. Io dirigo questo ente. Sì, da allora un mi anno... dica le cifre. Fresate, se le sono cifre sbagliate. Sono su un fatturato di 28 milioni di euro, 13 sono per gli stipendi, quindi una cifra molto diversa anche in termini percentuali. 13 sul 28, ok, 50. 50%. O meno, quindi anche questa qui è correttezza. Le sedi all'estero sono 23 e sono a disposizione di tutte le regioni e soprattutto di Expo. Sì, la grande rivoluzione. Ma l'Expo sta arrivando adesso, le regioni, a disposizione delle regioni, quando si parla di togliere le competenze per il turismo alle regioni, insomma, può darsi che sia valido per il passato, per il futuro bisogna che cambi un po'. Comunque in un anno abbiamo tentato, perché non è come dire facile venire da un mondo non pubblico, non c'è niente di facile, per carità, quindi io ho fatto questo in questo anno e poco più, di riprendere un dialogo con le regioni, perché prima questo dialogo non c'era, anche oggi noi ci vediamo con le regioni, abbiamo lanciato una campagna Made in Italy a disposizione delle regioni, una campagna cornice che sta avendo buon successo in Europa innanzitutto. Senta. E soprattutto da un anno a questa parte Expo è il logo che assieme al marchio Italia L'Expo in questo momento è la panacea di tutto. Senta, ha sentito non è la cosa? Panacea, sembra. È l'opportunità speriamo che sia sfruttata bene, sì. Prego? Speriamo che sia appunto sfruttata bene, perché è un'occasione d'oro. Non è un'occasione, è una responsabilità che io ho sentito molto forte. Se non portavamo l'Expo in giro per il mondo non vendevamo Italia, e se non vendiamo Italia non vendiamo Expo. Senta, questo è il lavoro che abbiamo fatto. Senta, Cottarelli però sembra aver alzato la mannaia su di voi. Mi sembra che bisogna dargli qualche buona ragione per non abbassarla questa mannaia. Mi dice una ragione precisa per cui Cottarelli vi dovrebbe lasciare in pace? Il tema non è Cottarelli, il tema è il governo. Io ho lavorato lavora per il governo Cottarelli, mi scusi dottor Babbi. Quando si dice Cottarelli per dire il governo. Bene, quando il governo, il ministro attraverso i suoi strumenti darà indicazioni, disponibilissimi a non far cadere questa mannaia. Questa mannaia... No, disponibili, le ho chiesto una buona ragione per convincere Cottarelli. Una buona ragione, che questa funzione della promozione di un paese nel mondo ha comunque da esserci, che si chiami sicuramente, o che si chiami agenzia, certo, o che si chiami ministero, ad esserci. Io non sono nato in Enit e sono qui al servizio per migliorare questo servizio. Io, dottor Babbi, ovviamente non discuto lei, discuto l'Eni, sto parlando dell'Enit, non di lei. Lei farà tutto il meglio che può, è appena arrivato, lo immagino. Allora, comunque, le faccio tanti auguri. Il tema è anche di conoscere le cose. Sì, appunto. Cottarelli lo invito a conoscere le cose, così come tutti quanti. Va bene. Nell'Enit ci sono delle persone straordinariamente, sicuramente, dei professionisti veri del turismo. Vanno valorizzati, vanno conosciuti, vanno messi in grado di lavorare e di lavorare con le regioni. Va bene, la ringrazio e le faccio tanti auguri. Mix 24. E che nel cielo c'è un'attrazione, che c'è una luna che sembra un sole, se tu fossi qui te lo farei notare. E che ti amo più di ieri, che ti amo occhi neri per come eri e come sei. Se fossi qui accanto a me ti stringerei le mani, non esiste. E l'eterno sorriso dolorante, malinconico, Giorgio Conte, grandioso, te lo farei notare. Siccome oggi in metropolitano ho notato che c'era una coppia lì che discuteva, che si guardava, si raccontava. Cioè, metropolitana incontra sempre le coppiette. Ma ti ricordi il film L'avvocato del diavolo? Sì. Cosa suggerisce? Dice: bisogna prendere sempre la metropolitana. Ma giri con l'impermeabile in metropolitana. Tutte le storie stanno lì. Ed è appunto per gli occhi neri. Entro io, Mario, mi puoi dire? Adesso entra, entro così. Da sola, ma perché scusa, non sono sempre invitata? Sei sempre invitata. E allora basta. Mario, mi dici per favore in sardo, baby, light my fire. Ma tu pensa, vabbè. Picciocchè da lui mi su fuoco. Questo è il nostro invito alla Merkel, perché ci scaldi un pochino, perché nella sua visita in campagna, dopo aver parlato col sindaco di Pozzuoli, ha esclamato: ma con il 50% di disoccupazione siete davvero in crisi. E io ho pensato: evviva, l'ha capito! Ma subito dopo, quando scopre che il Duomo della città è restaurato proprio con fondi europei, si illumina e dice: vedete che allora l'Europa vi sostiene? Beh, mi sa che per ora sentiremo ancora un po' di freddino, mi sa. Però, Giovanni, detto questo, mi devi concedere una cosa delle mie robe di animali. Ma guarda, posso? Non è che ti concedo, tu fai come ti pare, fai bene. Vai, quota rosa. Sono molto triste, in realtà, perché oggi in Canada è ricominciata la caccia alle foche e ai loro cuccioli. Quindi tanta morte solo per vanità. Per la vostra vanità. Mario, cosa bolle in pentola? Meno male che io non sono buonista come la Tardelli. Non vi sono nazioni, senti qua. Non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato. Insomma, era quinto potere, è il dollaro, ovviamente. E c'è una cosa molto divertente, è una chiacchiera, ma è una chiacchiera, diciamo, con sostanza, sulle nomine. E te la riporto così da vecchio cronista, da dietro le quinte. Allora, si dice che la partita delle nomine in Italia abbia un vincitore, e sia Barack Obama. Perché negli equilibri dei nomi e dei cognomi, Francia e Germania, insomma, non gli è andata molto bene. Ne escono con gli Ossarotti. Per esempio, De Gennaro è americano, Marta Dassù è washingtoniana, Moretti, che viene da FS, non venderà mai i treni di Ansaldo Breda, in generale, ma soprattutto non ai francesi. E Caio delle Poste è considerato vicino alla regina, sai che stava la Marconi, che è un trade union tra gli inglesi e gli americani. E soprattutto l'Enel pare avrà il compito di dare una limatina alla superiorità russa sul gas. E naturalmente l'Eni farà un lavoro di link e ricostruzione in Medio Oriente con gli sciiti. A Merkel e Hollande a questo giro non resta niente. Per quello che la Merkel è venuta in Italia. Ma intanto a Parigi, qualche giorno fa, gli autori, i produttori di contenuti si sono riuniti con 20 ministri della cultura di tutto il mondo per discutere la necessità di individuare i modi, gli strumenti per tutelare il diritto d'autore, cioè la creatività. nell'epoca della globalizzazione. Filippo Sugar, vicepresidente della SEA, rappresentava l'Italia. Ecco, dottor Sugar, è la prima volta che autori di tutto il mondo si confrontano con i politici su questo tema. Già un passo avanti. Sì, direi di sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Direi proprio di sì, almeno io non ricordo un'altra occasione. Oltre ai 20 ministri della cultura c'era anche Michel Barnier, che è il commissario al mercato interno, il commissario alla cultura Andrew Lavasiliu e Martin Schulz, che è il presidente del Parlamento europeo. E quindi è un bel contesto. Ma quant'è il giro d'affari di cui si parla quando si parla di industria della cultura in Europa? E questo è molto importante. Uso le cifre che ha dato proprio Schulz al convegno, perché rappresenta l'industria della creatività, della cultura, il 4,5% del PIL europeo, rappresenta più di 8 milioni di posti di lavoro diretti e oltre 400.000 imprese. Tra l'altro è emerso un dato che a me è molto piaciuto, cioè in Francia negli ultimi 25 anni il peso dell'economia, della cultura, è cresciuto dal 2,5 del PIL al 5,5. Il 5,5 settore... del PIL in Francia. Esatto, un settore in crescita. Noi in Italia entro l'estate pubblicheremo una ricerca fatta sulle stesse basi scientifiche di quella francese per capire il peso economico e occupazionale dell'industria culturale. E quindi quali sono le scelte da fare per tutelarla, per implementarla, per difendere i brevetti della tecnologia? Le grandi multinazionali spendono milioni e milioni di euro. Ecco, per difendere i diritti di chi crea i contenuti, cioè degli autori, quanto si spende? Beh, diciamo che sulle cifre non possiamo competere, perché proprio le industrie sono diverse. Una industria, quella della tecnologia, è molto concentrata in poche aziende grandissime, di grandissimo, diciamo, valore economico. L'industria della cultura è molto molto parzializzata in migliaia di piccole imprese artigianali, quindi a volte ci aggreghiamo come la società degli autori, la SIA in Italia, l'SCF. Vabbè, ma è soddisfatto del risultato dell'incontro di Parigi? Io sono soddisfatto perché dà una speranza, sicuramente. Oltre all'aspetto culturale e di identità culturale dei nostri paesi, c'è un aspetto appunto di valore economico che io credo l'Italia soprattutto debba cogliere, perché questa è una delle poche industrie importanti che ci rimangono. E poi c'è stato un punto di incontro tra i ministri della cultura, vuol dire che una sensibilità verso il tema della creatività che cresce. Sì, abbiamo molto apprezzato anche le parole del ministro italiano, che sono in questa direzione. Grazie, Salamini. Buono, no? Salamini di Flash Mob. Allora, è successo questo che la lista Tsipras ha festeggiato con un flash mob sotto la volta della Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ed è una specie di girotondo, però asimmetrico, poi geometrico, quindi trigonometrico, poi ancora etilico, chimico, spiritico, filatelico e però non sifilitico, anziché no, asfittico, ellittico, trittico, e hanno fatto infatti un, due, tre, ascoltateli. Allora, un, due, anche voi, perfetto, ci siamo tutti. A questo punto, al mio tre, un, due, tre, fermi. Via. La lista Tsipras nelle mani di Mario Incudine, Utiludissi, Catai Allassari. Oi, oi, oi. Andiamo avanti con le bolle, Mario. Vai. Non mi sono nazioni, non mi sono popoli. Che maestro Shifu, che succede? Pirati? Vandali del Monte Vulcano? Qualunque cosa sia, io li stendo in un lampo. Mi sento fucoso. Devo fare qualcosa, capite che intendo? Kung Fu Panda, insomma, la Cina rallenta, quindi devono fare qualcosa, perché dalla crescita cinese dipende poi tutta la crescita mondiale. Senza la Cina staremmo piuttosto male sotto questo aspetto. Il PIL si ferma al 7,4% contro il 7,7% dell'ultimo trimestre. Uno dirà, vabbè, ma è un misero 0,3. No, no, no, perché poi in termini totali parliamo di cifre importante. Sono sempre 7 punti di crescita, non bisogna fasciarsi la testa, però bisogna guardare con attenzione cosa succede in Oriente, perché il mercato immobiliare un po' soffre. Allora, perché il barbiere di Siviglia? Perché c'è questa storia sulla quale io vorrei da te anche un commento, anche di Pietrangelo. Ma cosa sta succedendo al teatro alla Scala? Ma questo Pereira, ma è una cosa meravigliosa. Allora, non è ancora sovrintendente. Nello stesso tempo, però, è ancora in carica a Salisburgo. Da non sovrintendente fa atti da sovrintendente alla Scala e compra opere prodotte da Salisburgo. Nessuno si accorge di niente, fa tutto sotto il naso del gran consiglio della Scala, che sono tutti colti, parrucconi, intelligenti, bravissimi. Poi arriva una lettera del ministero perché, sai, in America, American Music, scrive che questo è un pasticcio. E improvvisamente... E lo scrive American Music. E improvvisamente alla Scala si accorgono che c'è il pasticcio. Ma Pereira può restare a fare il non sovrintendente perché non lo è, avendo fatto atti da sovrintendente? Chi ha firmato? Listener? Che cosa sta succedendo in quel teatro? Vabbè, chiediamo a Muti cosa ne pensa. Chiediamo a Muti, perché secondo me Muti, se potesse parlare su questa cosa, non so cosa direbbe. Ma poi lo vogliamo ricordare che il Teatro alla Scala è l'unico teatro al mondo di tale importanza che nega l'accesso a un critico musicale, nega l'accesso a Paolino Isotta, la firma principe del Corriere. Vai col Salamino. Avrà mansioni di animazione il cavaliere Silvio Berlusconi al centro Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Avrà queste mansioni di animazione e lì c'è tutto il dettaglio. Il dettaglio è tutto lì e dice tutto del personaggio. Non potrà espatriare, non potrà frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, dovrà pagare gli alimenti a Veronica Lario. E Grillo giustamente dice che fine, al posto di Berlusconi mi sarei fatto arrestare, anche perché il dettaglio si allunga, e cioè che il giudice Beatrice Crosti è lo stesso giudice che si occupò del caso di Massimo Tartaglia, il lanciatore di Duomo in faccia al povero cavaliere, ritrovano. E si ritroveranno, perché ritroveranno. Stanno lì, staranno insieme, si incontreranno e che cosa dire? Forse aveva ragione Grillo, o meglio ancora immaginare che questa musica appunto lo accompagni suave come su di un filo. Parlando di politica del passato, Marina Milone ci racconterà De Gasperi nella seconda ora e lo storico Pietro Scoppola ci fa un racconto di questo funerale. E poi ci sono questi funerali e questa partecipazione impressionante di popolo, no? Il treno che porta la bara di De Gasperi verso Roma, in tutte le stazioni che attraversa, da Trento a venire giù, ci sono ali di folla, di gente che sta lì in omaggio e che vuole rendere questo estremo omaggio a quest'uomo di cui il popolo, il paese ha sentito subito il valore. Mix 24. Allora, abbiamo una breaking news, abbiamo messo l'inno russo subito perché sono stati avvistati dei blindati con bandiere russe nell'est dell'Ucraina, quindi qua la situazione si sta complicando notevolmente, vediamo domani nelle prossime ne ore cosa sicuramente succede. Intanto Pietrangelo Canzoniere. Ma di spirito voi, miserrimo furfante, mai non ne aveste un'oncia, e di lettere tante quanto occorrono a far la parola cretino. Avreste avuto d'altronde l'ingegno così fino da potermi al cospetto dell'inglia brigata servirmi tutti i punti di questa cicalata. 800 2400 24 il numero verde, 349-238-6666 l'SMS, e intanto, mentre aspettiamo la risposta, il professore sicuramente non ce l'ha, sentiamo il professor Simonelli che ci dice dov'era il canone ieri sera, ma ho l'impressione che con le notizie che arrivano da Cottarelli questo canone rischia molto. Allora, ve lo faccio dire dalla Gianna. Ragazzo dell'Europa, col Professore, allora? Allora, il canone era bellissimo alle 8:30, perché Lilli Gruber, con un colpo da maestro, ha intervistato Marine Le Pen a Parigi, cioè lei in studio e Marine Le Pen a Parigi, ma senza difficoltà che spesso ci sono nelle interviste a distanza. E non dico la messa in difficoltà, ma puntualmente ha chiosato su tutte le cose che Marine Le Pen diceva, con grandissima abilità, grandissima chiarezza, bravissima Lilli Gruber. Mi ha colpito una cosa: mentre nella prima parte la Le Pen ha detto delle cose che a me sembravano persino sensate, pensate, io non ho grande simpatia, ma sui grandi temi dell'immigrazione, delle religioni, dei diritti, insomma, si è difesa molto bene nelle domande, è caduta invece quando... Si è difesa nelle domande o nelle risposte? Nelle risposte, scusate. Eh no, perché la passione quando... per la Gruber, capisco che... Ha una domanda semplicissima, ma secondo lei, chiede la Gruber, quelli che vanno in giro per turismo, i ragazzi dell'Europa, saranno contenti di rifare le code agli aeroporti e ai posti di frontiera per andare a fare un weekend a Parigi o a Barcellona? E cosa e ha detto lì è venuto lei? Fuori non solo il populismo, ma il pauperismo di Marine Le Pen, che ha risposto, ma sa, la gente nel nostro paese viaggia sempre meno, e quindi cosa vuol che sia fare una coda all'aeroporto? La faranno i ricchi. E qui mi sembra veramente che è venuto fuori un po' di debolezza. Vabbè, è a parte il racconto. C'è Pietrangelo che deve dirle una cosa. Professore, le posso dare una notizia? Lo sa perché Lilli Gruber ha fatto questo grande colpo giornalistico? No, non lo so. Perché lei e Marine Le Pen sono amiche, si sono conosciute a Strasburgo, al Parlamento Europeo, e quindi ha avuto il via libera con questo grande colpo. Eh beh, ha visto che andare in Europa serve? Viaggiare anche un po'. Chissà chi porterà Santoro a questo punto. Allora la canzone è Ragazze dell'Europa. Sono le ragazze dell'Europa. Ci abbiamo la quota rosa, professore. Professore, c'è la quota rosa. Volevo sapere, ma non è che a lei piacciono le rosse così? No, guarda, no. Farò questa rivelazione. No, però che... è del Milan, i diavoli, no, le rose. Mi piacciono le more. Le more, va bene. Vabbè, allora insomma, questo c'è canone l'abbiamo del visto canzoniere? Ieri. L'abbiamo... C'è una risposta del canzoniere? Sì. Non Salvatore. Leggo. Salvatore. Salvatore? Sì, pronto. Ecco, allora ci dica. Si chiama De Bergerac. Giusto, bravo. Trinelli, da dove chiama? Da dove chiama Salvatore? Da Palermo. Da dove? Da Palermo. Ah, e che fa Palermo di bello? Ma insomma c'è un po' di movimento. No, lei cosa fa a Palermo? Io sono professore. Ah, professore dove? Al liceo? No, all'università. Ah, professore all'università di cosa? Sono professore di greco. Ah, di greco. Allora non ha googulato, lo sapeva? Come? No, niente, va bene, ok, d'accordo, grazie, ha vinto, la storia che raccontiamo oggi è la storia di De Gasperi, il leader della Democrazia Cristiana, che è l'uomo che forse più di tutti ha rappresentato la rinascita del nostro paese nel dopoguerra, e Marina Milone che cura la storia, in chiusura intervista Giuseppe Sangiorgi dell'Istituto Sturzo, ma c'è ancora una bolla, Mario. Ma no, sto guardando l'evoluzione della crisi in Ucraina, perché è interessante. Allora, danno i carri russi praticamente a Kramatorsk nell'est dell'Ucraina. Lavrov però dice l'incontro di Ginevra resta in agenda, quindi diciamo la trattativa diplomatica. Ma non c'è stata una telefonata continua. Fra Putin e Obama? Sì, c'è stata, ma non è che si sono chiariti molto. Kiev dice che comunque i prorussi vanno, diciamo, non dico eliminati fisicamente, ma ridotti alla ragione. Vabbè. A sua volta Mosca dice che invece Kiev li deve rispettare, secondo me non c'è niente di buono. C'è una situazione aperta. Professore, ancora al telefono? Sì. Ecco, c'è qualche altra cosa del canone di ieri sera, dopo ieri questa Gruber santificata? che mi preoccupa è un po' la situazione della satira. Ieri è finito Jazz, un programma da cui ci aspettavamo molto, il programma di Ricci. Vabbè, però Ricci prova e riprova. Sì, bravo, ce ne fossero tanti di Ricci. Ce ne fossero tanti di Ricci. Però, insomma, magari una volta ci torniamo. La sì. satira mi sembra un po' in difficoltà. In con Berlusconi, che è lì, che non si sa, e naturalmente cambia tutto lo scenario. Non a caso, e fare satira diventa più Crozza. Difficile. Crozza ha brillato parlando dei servizi sociali di Berlusconi. Infatti, quella ipotizzando dei rapporti, come dire, molto divertenti tra lui e la comunità di anziani che andrà a servire. E per voi il canone avete visto? No, perché no. Come no? Ah, sì. Appunto, ho visto quando Lily Gruber ha fatto la domanda, dice ma Berlusconi com'è? Allora Marine Le Pen si apre in un sorriso e dice ma Berlusconi è un osso duro. Lei l'ha capito. È in Italia che vuoi fanno chiudere quelli con che una non canzone. Lo dai, via. Va con bene, la canzone. Vai con la canzone. Late will soon.